versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, in questi giorni un pochino più rilassati, così via. Non sempre le trasmissioni devono essere fatte sul tamburo, seguendo ovviamente la cronaca, gli sviluppi politici ed economici, ma servono anche talvolta per riflettere un secondo, o meglio, per proporvi gli spunti di riflessione. E quindi oggi l'occasione è quella di un libro che a me è piaciuto molto, perché tratta di un tema, come vedrete subito, che tocca le opinioni e la vita di noi tutti. È un libro scritto con una mano tagliente, un pamphlet, come si suol dire, cioè è un libro in cui c'è un punto di vista chiaro, netto, un po' come sono i miei, a dire la verità, fin troppo netti talvolta, come mi fate sempre notare con gli sms e i messaggi a, lo ricordo, al nostro indirizzo versione di Oscar @radio24.it. però i libri che hanno una tesi netta e chiara ovviamente sono quelli che poi mettono, per così dire, anche le dita negli occhi, suscitano un dibattito esplicito, perché nascono con questo intento. Allora, il libro di cui parliamo oggi ha una tesi che si vede, si evince dal titolo stesso, perché il titolo è Contro la natura, o meglio, cioè l'articolo determinativo è tra parentesi, Contro natura, però la faccenda è Contro la natura. E perché Contro la natura? Perché è un libro naturalmente non scritto contro la natura, il nostro pianeta, l'ambiente, è un libro scritto contro i luoghi comuni, i pregiudizi dominanti che orientano il dibattito pubblico, i media, la politica, i decisori pubblici e così via, in relazione all'intera tematica del rapporto tra l'uomo e la natura. E l'idea di fondo è proprio quella di scardinare, sia filosoficamente che economicamente, l'idea che molti hanno. Questa idea è che la natura è in realtà una cosa bella, buona e giusta, per usare tre aggettivi, e che l'uomo, ohimè, è brutto, cattivo e ingiusto, perché ne determina l'alterazione, la porta alla fine, perché egoisticamente pensa solo a se stesso e a non le conseguenze di quello che fa, eccetera eccetera eccetera. Ecco, allora, smontare queste opinioni comuni con delle controdeduzioni realistiche, secondo me, è una cosa molto sana. Quindi io vi consiglio questo libro, ed è con noi uno dei due autori. Sono due autori, il secondo è Patrizia Feletig, ma l'autore che è con noi è Chicco Testa. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera, grazie Oscar. Allora, perché innanzitutto ammettiamo per ipotesi che chi ci ascolta non sappia i suoi trascorsi, un ambientalista che già 20 anni fa iniziò a scrivere articoli dicendo stiamo diventando una setta di estremisti, dopodiché i suoi trascorsi politici, oggi lei fa il manager e l'imprenditore. Qualcuno potrebbe dire, siccome fa il manager è diventato indifferente alle tematiche ambientali, è così o non è così? No, la prima cosa che voglio precisare è che secondo me questo è un libro ambientalista, a favore di un sano riformismo ambientalista, cioè delle tante cose che devono essere fatte per migliorare l'ambiente dentro il quale viviamo. E invece, come ha già detto lei, è un libro contro i fondamentalismi ambientalisti, quelli che rimpiangono un paradiso perduto che non è mai esistito e che non hanno la consapevolezza del fatto che la storia della specie umana è un lungo viaggio, io lo dico sinteticamente, dal naturale all'artificiale, perché grazie a un set sterminato di tecnologie che vanno dall'antibiotico che pigliamo quando abbiamo un'infezione fino a cose molto più complesse di cui ci circondiamo ogni giorno, grazie a tutto questo la specie umana è sopravvissuta, è cresciuta, la durata della vita umana si è allungata, il nostro comfort di vita è diventato molto migliore e abbiamo trasformato il paesaggio intorno a noi. Dico, oggi vivere a Folgheri, no? Un pezzo bellissimo di campagna toscana, è più o meno come vivere a Manhattan. Hai il riscaldamento, la luce elettrica, l'aria condizionata, il wifi, i mezzi di trasporto e tutto quello di cui hai bisogno, perché quella campagna è stata profondamente trasformata dall'uomo, no? E quindi non c'è ritorno alla natura, anzi, se vogliamo, diciamo, conservare l'equilibrio ecologico che serve a noi, non serve alla natura, il pianeta, il nostro pianeta, è stato popolato da dinosauri, è stato glaciato, è stato caldissimo, ci sopravviverà in ogni caso, no? Alla storia del pianeta metterà fine solo fra 4 miliardi di anni l'esplosione della stella che ci scalda, il Sole, ma non ha bisogno di noi il pianeta, siamo noi che abbiamo bisogno del pianeta, e per fare questo abbiamo bisogno di fare tante piccole cose. Quindi non è un libro contro l'ambiente o contro gli ambienti, è contro un certo ambientalismo, è contro idee sbagliate che sono secondo me idee regressive. Allora, io mi metto nei panni del diavolo rispetto alla sua tesi. Allora, diciamo così, nella storia, diciamo, negli ultimi tre secoli, due secoli e mezzo, cioè da che con la rivoluzione industriale si intensifica il ritmo di trasformazione attraverso la tecnologia del nostro ambiente, diciamo che ci sono state tre obiezioni di fondo alla sostenibilità di questa accelerazione attraverso la tecnologia della capacità umana di modificare l'ambiente. Una prima diceva, non saremo mai Malthus per capirci, una prima diceva, beh, insomma sì, ma quello che volete, ma... anche il professor Sartori è convinto ancora oggi di questo. Dice, ma per quanto sia rapido il progresso tecnologico, l'effetto che avrà sarà di aumentare così tanto la popolazione che comunque le risorse non basteranno. Allora, questa prima obiezione resta in una parte del mondo ambientalista. Poi c'è una seconda obiezione che è venuta, Marx per capirci. La seconda obiezione è, ma no, il problema è che il mercato, il capitalismo non è sostenibile, non tanto per la ragione dei limiti strutturali delle risorse fisiche del pianeta, perché Marx in questo era per la tecnologia, altro che, ma perché a un certo punto il tasso di profitto di chi sta sul mercato cadrà e ci sarà una tale contraddizione che il mercato lo chiudiamo perché sostituiremo un altro regime. Oggi c'è una terza obiezione. Anche la seconda obiezione resta molto forte nel mondo ambientalista. La terza obiezione, per arrivare ai tempi nostri, la chiamo quella di Piketty, e dice no, ma il mercato non sta in piedi perché se guardiamo le serie storiche, in realtà siccome il tasso di rendimento delle attività e degli impieghi finanziari è sempre maggiore di quello di crescita, andrà a gambe 48 se non siamo intelligenti, perché dobbiamo cambiare sistema, perché noi dobbiamo ricentrare tutto sul reddito di chi lavora, elevare tutto alla finanza, enormi patrimoniali e così via. Allora, queste tre obiezioni, diciamo così, hanno avuto risposte nella storia, nel senso che la prima per me non sta in piedi e si vede, visto il miliardo di persone e il miliardo di poveri in meno solo negli ultimi 20 anni, però tanta gente è convinta che ci sia ancora. Il secondo resta un'obiezione fortissima in tutta la sinistra italiana, europea, mondiale. La terza non ne parliamo perché è diventato il mantra che tutti ripetono. Allora, la mia domanda è: quanto di questo estremismo ambientalista che lei critica nel libro è figlio della somma di queste tre grandi obiezioni storiche al mercato? In realtà l'ambientalismo estremo non è una critica esattamente all'eccesso di tecnologia in quanto tale? No, e lei ha assolutamente ragione. Allora, Malthus si è completamente sbagliato perché c'è un errore teorico nel suo pensiero. Nei sistemi ecologici, nell'ecologia, non comanda la popolazione, ma comanda il cibo. Cioè, se non c'è cibo, non cresce la popolazione. È un esperimento che potete fare anche nel pollaio di casa vostra, se ce l'avete. Se avete delle galline, se non gli date da mangiare, le galline smettono di riprodursi e di fare uova, no? E quindi, se non ci fosse il cibo, semplicemente la popolazione umana si ridurrebbe. Invece la popolazione umana continua a crescere perché le rivoluzioni agricole che abbiamo avuto hanno aumentato enormemente la fertilità dei terreni e la produttività dei terreni, no? E così si presume che continueremo per ancora molti anni. E fra l'altro, come scrivo nel libro, il vaso di Pandora delle possibili tecnologie future, pensiamo alle nanotecnologie per esempio, è un vaso ancora tutto da scoprire, compresi gli OGM, le modificazioni genetiche eccetera eccetera, che laddove sono applicate per esempio nella coltivazione del cotone in India ha migliorato enormemente le condizioni di vita dei contadini. Le altre due obiezioni, perché lei ha ragione, lei mi sta portando in realtà una buona parte del movimento ambientalista è il risultato di un'idea catastrofista del mondo, delle cosiddette teorie del crollo, no? Che in Marx sono presenti e che poi arrivano agli estremi in Lenin e in alcuni teorici del comunismo, convinti che il mondo sarebbe crollato e che quindi la sostituzione di una classe nuova e dello Stato alla borghesia e al mercato sarebbe stata la soluzione. In realtà non è successo così e, come scrive Ruffolo in un bel libro, il capitalismo ha i secoli contati. Ecco, questa è la... Senta, stiamo esattamente agli strumenti attraverso i quali abbiamo innalzato la resa per ettaro di ciò che poi si produce a terra per mangiare. Lei nel libro affronta la questione che in Italia scalda molto gli animi, ho visto che anche questo governo in sede europea difende il fatto che noi possiamo derogare dalla direttiva europea e quindi proclamarci no OGM. Nel libro lei fa molti esempi, dice gli ambientalisti italiani che sono contro gli OGM e poi si dimenticano che l'80% della soia consumata per fare i mangimi di tutti il bestiame che esiste in Italia è tutta OGM modificata. Però perché si è così minoritari a pensarla come noi, mentre invece la gente pensa che li vogliamo avvelenare? Questa è una bella discussione, perché purtroppo l'opinione pubblica è attraversata e popolata da vere e proprie leggende metropolitane. Ha a che fare con la parte emotiva del nostro cervello, della nostra possibilità. Qualcuno ha descritto questa cosa dicendo la razionalità di un uomo è un piccolissimo fantino che cavalca un elefante potentissimo che invece è la sua emotività, no? Però lei sta dando così implicitamente a Carlin Petrini, a tutti coloro che sono mobilitati contro sì. l'OGM di essere degli irragionevoli sostenitori dell'amigdala rispetto alla corteccia cerebrale, pesante. Ma, esatto, guardi, allora io posso riconoscere un'argomentazione, no? Che mi ha fatto un'obiezione che mi ha fatto Farinetti proprio discutendo del mio libro. Lui ha detto, guarda, gli OGM si applicano a culture, fondamentalmente almeno fino ad oggi si sono applicati a culture estensive, sto parlando della soia, sto parlando del cotone, in parte del riso, culture per cui l'Italia non è vocata. L'Italia è vocata ad altre culture, che sono culture più di nicchia, eccetera, eccetera, non abbiamo bisogno degli OGM. Questo è un terreno su cui si potrebbe anche discutere, secondo me. Io però obietto una cosa. Faccio un esempio, quest'anno il prezzo dell'olio è quasi raddoppiato perché noi abbiamo avuto la devastazione della mosca olearia, conseguenza delle piogge abbondanti, eccetera, eccetera. Allora perché distruggere l'uliveto dell'Università di Viterbo, dove un piccolo gruppo di ricercatori su un centinaio di piante cercava di trovare una combinazione per rendere queste piante più resistenti alla mosca olearia? Non è quello che hanno fatto i nostri antenati quando di fronte alla filossera che ha devastato la vite in tutta Europa si è inventata l'innesto della vite europea sulla vite americana e ha, da questo punto di vista, difeso la produzione. Ma come? Lei non vuole tutelare le specifiche degli ambienti bio? Capito? Lei... Il bio è una scelta, se qualcuno vuole mangiare bio, mangi bio. Ma spieghiamo a chi è a casa, anzi glielo spieghiamo tra 60 secondi, perché nel frattempo abbiamo l'interruzione sul traffico stradale, torniamo tra 60 secondi, vi faremo riflettere su che cosa non mangereste, delle tante cose che mangiate, se fosse valso il principio per cui bisognava mangiare solo ciò che cresceva spontaneamente nel nostro habitat naturale mediterraneo, per carità, terra ubertosa, eccetera eccetera, però forse è meglio che ci pensiate quante cose del vostro menù non ci sarebbero se avessimo dovuto nei secoli adottare questo ferreo criterio di tutelare la biodiversità. Strada va. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, stiamo parlando, come ci capita di fare in questi giorni di festa, di un cibo per la mente, per così dire. Non ho nessuna pretesa di convincervi, ma alcuni suggerimenti su libri o temi. Oggi stiamo parlando di un libro che si chiama Contro la natura, con il la tra parentesi, di Patrizia Feletic e di Chico Testa, che è con noi. Ci siamo lasciati un minuto fa parlando delle tutele della biodiversità. Ricordiamo un secondo, Chico Testa, che cosa non potremmo mangiare se questo vincolo ferreo a cibarci solo di quello che cresce sulla terra italica fosse stato nei secoli la regola seguita, che oggi molti invocano peraltro. Ma credo prima di tutto, adesso non mi ricordo esattamente tutto, probabilmente lei si ricorda delle cose che non mi ricordo, ma prima di tutto per esempio il pomodoro. Ah, ecco. Senza il quale non avremmo buona parte delle culture, dei cibi tipici italiani, a cominciare dalla pizza e degli spaghetti con la pummarola in goppa, no? Il quale lo abbiamo importato dall'America, e c'è un bellissimo libro che ho letto tanti anni fa che si chiamava L'imperialismo ecologico, che racconta proprio di queste migrazioni di specie e di malattie da una parte all'altra del mondo, fenomeno oggi di cui dobbiamo tenere conto anche per i suoi aspetti pericolosi che ci sono, no? le possibilità di epidemie, di pandemie, eccetera, eccetera, ma non è che non ci fossero prima. Certo. Le ricordo che metà della popolazione europea è morta all'epoca della peste, quella descritta da Boccaccio, a causa della peste nera, no? E che ancora all'inizio del Novecento la spagnola ha ucciso in Europa tra i 30 e i 50 milioni di persone, no? Allora, restiamo su questo terreno. Lei è arrivato alle pandemie, alle malattie, eppure viviamo nel nostro paese oggi, ci sono magistrati, quindi in nome della legge, come si suol dire, che prendono decisioni, sentenze, collegando i vaccini autoimmuni a essere determinanti di patologie gravissime. L'ultima è venuta poche settimane fa. Viviamo in un paese che poche settimane fa ha avuto un'ondata per cui la gente non andava più a vaccinarsi per l'influenza, per il SWAD e tutto quello che stava capitando, malgrado poi ci fossero le evidenze immediate dell'Istituto Superiore di Sanità che non coglieva nessi causali tra le morti su cui si indagava e l'assunzione del vaccino. Moltissimi restano convinti nel nostro paese di due cose apparentemente contraddittorie. Primo, che farmaci avanzati di fronte a patologie gravi vengano pompati nell'esclusivo interesse delle aziende farmaceutiche. Uno. Seconda cosa, alcuni milioni di italiani, centinaia di milioni se guardiamo in tutti i paesi avanzati, sono convinti che invece le vere medicine siano quelle alternative, quindi ma quali farmaci, ma quali molecole che non fanno parte della nostra naturale biocomplessità umana, le medicine alternative possono essere la ayurvedica, tante altre, lei se ne occupa specificamente. Anche qui la questione, secondo lei, è culturale e l'influenza di un cattivo modo di fare dibattito pubblico, oppure in realtà c'è una colpa anche in questo caso poi delle imprese da considerare, del regolatore pubblico? Lei come la vede questa questione della sanità? Ma guardi, allora, che le aziende farmaceutiche possono perseguire i loro interessi mi pare, come dire, scontato, e tocca al regolatore fare in modo che questo avvenga nei limiti dell'etico, no? Dopodiché, essendo io figlio di un medico condotto ed essendo cresciuto nei primi anni della mia vita nelle valli del Bergamasco, dove mio padre faceva il medico, mi ricordo i bambini morti di poliomielite, difterite, e altre malattie, epatite e tante altre malattie infettive che oggi abbiamo completamente debellato grazie a questo tipo di vaccini e di interventi. Sto parlando di tassi di mortalità infantile che sono calati di alcune centinaia e centinaia di volte grazie a queste medicine, no? Dopodiché scopriamo che la moglie di Albano, Romina Power, invece, rilascia interviste e mantiene un sito contro le vaccinazioni e purtroppo è un sito frequentatissimo. Perché questo avvenga? Perché la gente creda ad Adriano Celentano piuttosto che a Beppe Grillo, a Crozza, alla Littizzetto o alla moglie di Romina Power? Tutte persone con la moglie di Albano, ecco, la moglie di Romina Paolo, sì, la moglie di Albano, tutte persone con le quali vale la pena di farsi quattro sane risate, per me è rimane un mistero, capisce? È frutto di una cattivissima comunicazione, è frutto di un'ansia psicologica che abbiamo dentro, per cui ciascuno di noi vorrebbe essere immortale e accusa altre cose in una ricerca continua di capri espiatori del perché non gli venga garantita l'immortalità, capisce? Quante persone io incontro che mi dicono: ah, lei parla così, però mio padre è morto di tumore, e io domando, anche mio padre è morto di tumore, e io domando sempre: ma quanti anni aveva? Mio padre è morto di tumore, aveva 80 anni, aveva raggiunto un'età di vita che 50 anni fa era quasi impossibile raggiungere, capisce? Poi purtroppo a un certo punto di qualcosa si muore, e tutti noi, a tutti e noi piace incolpare il destino cinico e baro o la casa farmaceutica o l'inquinamento. Nel mio libro c'è un capitoletto che dice: l'inquinamento fa male, ma qualche volta la mancanza di inquinamento fa peggio. Basta che voi guardiate una statistica: a Milano si vive mediamente oltre gli 80 anni, città inquinata della pianura padana. Nelle libere savane dell'Africa, dove l'aria è purissima e i cibi sono naturali, si muore intorno ai 40 anni. Lei naturalmente ignora deliberatamente l'obiezione che verrebbe dal fronte ambientalista, che la vita media è più bassa dove l'ambiente è migliore, perché è l'espressione diretta di quello spirito di spoliazione appropriatrice del capitalismo di mercato che è radicato nel mondo avanzato, dove si vive di più a spese di quelli poveracci che noi teniamo in quella condizione. Muoiono perché sono poveri. Sono poveri e sono analfabeti. A me è capitato, lo racconto nel libro, di regalare un termometro ad un giardiniere africano che aveva il figlio a casa con la febbre, forse ammalato di malaria, e scoprire che lui il termometro lo accettò, ma poi quando andai nel suo villaggio mi resi conto che nessuno sapeva leggerlo, e quindi nessuno sapeva se il bambino aveva la febbre o non aveva la febbre. Non so se mi spiego. Cioè, questi sono i fattori di fondo che dobbiamo combattere. Non le leggende metropolitane. Senta, andiamo a un capitolo che è forse uno dei più delicati per un paese ad altissima dipendenza energetica e che ha scelto con le sue decisioni popolari, pubbliche, referendum, un bel mix energetico di quelli che non è uguali tra tutti i paesi avanzati, e che somma l'altissima dipendenza da paesi a rischio con il fatto che siamo quelli che utilizzano la più alta percentuale di gas nel ciclo combinato per fare energia elettrica. Lei lo sa che le pagine del suo libro, i capitoli dedicati a questo, non convinceranno mai il dibattito pubblico italiano. Lei lo sa che lei a un certo punto fa un capitolo su quanto noi incentiviamo il nucleare, 7 miliardi di euro l'anno per 20 anni, solare, ha ragione, mi scusi, 140 miliardi di euro in 20 anni sono, e quale sarà l'effetto di tutto questo. Però il problema è che a dire queste cose si passa per alfieri delle energie fossili, al servizio di un progetto di avvelenamento. Sta di fatto che anche qua i giudici, noi ce ne siamo occupati in più di una trasmissione, a vado ligure prendono decisioni contrarie alle rilevazioni di tutte le reti pubbliche, come anche nel suo libro lei ricorda. E quindi che cosa facciamo su questo? Ci rassegniamo, lo ripetiamo, ma non veniamo ascoltati, è così? Beh, la tentazione a rassegnarsi è forte. Guardi, io penso, credo come lei, che la cosa più importante nel mondo sono le idee. Se tu parti da idee sbagliate, da informazioni sbagliate, da pregiudizi, da non conoscenze, poi le decisioni che prendi sono tutte sbagliate, inevitabilmente, sono tutte sbagliate, perché è la lettura del mondo che tu hai che è sbagliata. E purtroppo nel nostro paese, più che in altri paesi, queste idee sbagliate hanno avuto una diffusione gigantesca, con una sola giustificazione che io do all'opinione pubblica, vale a dire il fatto che c'è un livello di fiducia così basso nelle istituzioni italiane. E ci sono buone ragioni. E ci sono buone ragioni, per questo che giustifico, che manca qualsiasi autorevolezza dall'altra parte nel contrastare queste idee sbagliate. No? Una volta, ogni volta che dico una volta dico cazzo, l'ho detto ancora una volta, mi scusi l'espressione, però purtroppo lo devo dire, perlomeno i partiti erano formatori di opinioni pubbliche, no? Avevano anche uno scopo educativo. La fine dei partiti ha liberato una prateria di luoghi comuni, di idee, e rispetto alle quali solo qualche illuso come me e lei pretende di riuscire a ricordare la razionalità della scienza, della tecnologia, di una lettura informata dei fatti, delle statistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Non le nascondo che il desiderio o comunque la tentazione, diciamo, alla rassegnazione qualche volta è molto forte, perché poi lei fa questa trasmissione, io scrivo i libri, andiamo ai dibattiti, eccetera, ma tanto eccetera. Rimbalziamo per no, ma poi basta due minuti di Adriano prima serata e tutto quello che lei ha detto è stato distrutto in un minuto. Assolutamente, però c'è un malgrado nel mio piccolo, io dico, anche se vi è sembrato non essere d'accordo, cari ascoltatori, leggete questo bel libello Contro la natura di Chicco Testa e Patrizia Ferretting, leggetelo, guardate che se siamo diventati l'unico paese al mondo in cui i magistrati in sede di indagine preliminare, cioè in audita altera parte, capite, non a seguito di un dibattimento, di un processo, intervengono loro nel dire su una centrale, un rigassificatore, un impianto siderurgico, questo si fa e questo non si fa, i fatti sono due: o voi siete convinti che abbiamo realizzato, unico paese al mondo in cui questo avviene, noi un modello di perfezione, oppure, siccome dall'altra parte c'è tutto il resto del mondo, c'è qualche cosa che non va nel nostro modello di assunzione delle decisioni e di valutazioni, esattamente sul tema di cui si occupa il libro, il nostro rapporto con la natura, il nostro diritto dovere di trasformarla per l'uomo, senza per questo significare che la stiamo distruggendo. La natura muta, e chi vi racconta che c'era il mitico tempo di Saturno, della natura feconda e buona, vi sta raccontando una storia. Grazie a Chicco Testa, continuate con Radio 24.